che non mi incazza è Dio porco, vaffanculo, vaffanculo. Dio schifoso cane, Dio schifoso cane, porco Dio. Chi è che il monaco, chi è che il monaco che batte la porta e chiude il santo? Dio schifoso cane, Dio schifoso cane, porco Dio. Chi è che il monaco, chi è che il monaco, e anzi il brivo che aperta lì. Porco Dio, cos'è sto telefono, porco Dio. Porco Dio, cos'è sto telefono, porco Dio. Porco Dio, porco Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio. Dio schifoso cane, porca la madonna. Dio che mai è Gesù Cristo, non nessuno. Dio, Dio schifoso cane, porca la madonna. No, no, fai buona. Dio, Dio, bubu. Porco Dio, Dio schifoso cane, porca la madonna. Dio che mai è Gesù Cristo, non nessuno. Dio, Dio schifoso cane, porca la madonna. Dio ti apre la porta di bestemmia, guarda. Porco Dio, porco Dio, se non bestemmia, guarda. Porco Dio, porco Dio, cane, porco, cane. Titan era un cartone animato degli anni 80, no? Però...